la versione di Oscar Giannino. This is the end, beautiful friend. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, qui dagli studi Radio di Milano, Oscar Giannino vi saluta e vi ringrazia in questo venerdì 24 aprile, sono le 16.33 primi. Allora, vado subito al punto dopo avervi ricordato come sempre l'indirizzo, versione di Oscar, @radio24.it e nel ricordarvi anche il numero di telefono 800 24 00 24 e quello per le opinioni per gli sms 349 238 6666. Di che cosa parliamo oggi? Ecco, mi interessa sapere la vostra opinione su una notizia, ovviamente non riguarda la politica, non stiamo parlando degli sviluppi del Consiglio Europeo di ieri, della Libia, non riguarda gli scontri nel PD, no, riguarda una cosa che apparentemente è molto lontana dalla nostra vita quotidiana, ma in realtà non lo è per niente, cioè la notizia che è apparsa in questi giorni sulla prima manipolazione di un embrione umano da parte di ricercatori e scienziati cinesi. Allora, mi interessa capire se per voi questa notizia, che sembra rompere delle barriere fino a qui considerate invalicabili, vedremo le opinioni che si confrontano sul tipo di tecnica che è stata utilizzata per questa manipolazione di un embrione umano, però la notizia sembra annunciare che mentre una parte del mondo, e alla quale apparteniamo anche noi, ci sono ampi dibattiti e opinioni contrastanti molto forti in materia di bioetica, c'è un'altra parte del mondo in cui in Cina queste barriere, insomma, sono molto meno forti a quanto pare. E allora il problema che ci si pone è se abbia senso essere così intransigenti a casa nostra quando poi nel resto del mondo poi questo tipo di ricerche si fanno. Però si tratta innanzitutto di capire che cosa è precisamente avvenuto. Sapete che noi viviamo in un paese particolare, per così dire, dove per anni, prima che la Corte Costituzionale con molte pronunzie ne facesse strame, la facesse a pezzi, abbiamo votato e dovuto rispettare una legge molto restrittiva come la legge 40, in materia addirittura di numero di embrioni impiantabili nella fecondazione assistita, eccetera, eccetera, eccetera, molto limitante quanto a esami rispetto alle malattie congenite del feto e così via. Detto tutto questo, che cosa è avvenuto in Cina? Poi vi presenterò un ospite che naturalmente ne sa molto più di me. Siamo anche un paese che ha dei pregiudizi, questa è la mia opinione, antiscientifici molto forti, basta vedere qual è il dibattito e la posizione nettamente maggioritaria, non mi illudo, italiana, contro gli OGM e la ricerca sugli OGM. È un paese nel quale poi nella comunicazione pubblica vi sono alcune figure minoritarie come Elena Cattaneo per esempio, che tentano, per così dire, di fare riflettere l'opinione pubblica e i politici italiani sull'antiscientismo che è molto forte a quanto pare in nome del cosiddetto principio di precauzione. Allora, innanzitutto, prima di arrivare a fare alcune domande all'ospite, tentiamo di sintetizzare, spero senza commettere errori, poi sarà l'ospite che a correggermi se ne commetto, che cosa è avvenuto in Cina. Ecco, le Nature Science, quindi le due testate quasi più di riferimento per la divulgazione scientifica, hanno annunciato gli effetti di questo esperimento che si è tenuto in Cina e con uno studio che è comparso, facendo riferimento a uno studio che è comparso su una rivista scientifica poco nota che si chiama Protein and Cell. E una equipe guidata da un genetista cinese, Yung Jun Wang, ha adottato un sistema di editing genetico, si chiama così, per tentare di correggere selettivamente un gene difettoso all'interno di un embrione umano che non era destinato a nascere, a essere impiantato, quindi si definisce un embrione umano non vitale, per così dire. E il tentativo di questa tecnica di editing genetico era quello di rimpiazzare il gene non sano, un gene che è responsabile della talassemia, con un altro gene che invece evitasse naturalmente l'insorgere poi di questa patologia. Il risultato di questo esperimento, con la tecnica che ha utilizzato questa equipe cinese, è stato fallimentare, perché su 86 embrioni umani, sia pure non vitali, manipolati, solo 71 sono sopravvissuti, 54 sono testati geneticamente, però la riparazione, per così dire, cioè la sostituzione del gene malato con quello di un gene sano, è avvenuta, rispetto a 86 casi, solo in 28 embrioni. Ma soprattutto, cosa molto preoccupante, in numerosissimi embrioni su cui si è intervenuto sono intervenute poi mutazioni genetiche contestuali imprevedibili e non correggibili. Quindi, in quanto tale, l'esperimento non è riuscito. Però il problema è che in Cina non solo questa equipe, ma molte altre equipe conducono esperimenti di manipolazione genetica di embrioni umani quando queste tecniche di manipolazione dalla ricerca erano soprattutto concentrate sugli embrioni animali. Allora, qui si apre un ventaglio di ipotesi. Per esempio, se leggete La Stampa di Torino di oggi, c'è un genetista, Giuseppe Novelli, che è rettore dell'Università Tor Vergata di Roma, che dice sì, l'esperimento non è riuscito, ma in realtà è anche grazie a ricerche di questo tipo che noi potremo un domani, con analisi embrionali e interventi sugli embrioni, evitare poi l'insorgere di patologie successive. C'è un'opinione del tutto contrapposta, quella del direttore dell'Istituto di Bioetica dell'Università Cattolica di Roma, il professor Antonio Gioacchino Spagnolo, che dice assolutamente no. Innanzitutto non capisco come si possano manipolare, non è giusto, non è accettabile manipolare embrioni umani, sia pure non destinati a essere impiantati, e come, dice il professor Spagnolo, sperimentare terapie su morenti. Io non capisco il paragone, ma è testualmente quello che dice lui. Dopodiché dice, questo esperimento dice che comunque il traguardo non è così vicino, ma al di là di tutto ci consegna un orizzonte di interventi a modifica degli embrioni umani che sono imprevedibili, possono essere finalizzate anche a cose che sono al di là di ogni etica. Ecco, allora abbiamo con noi, per spiegarci meglio, darci il suo punto di vista, un altro accademico italiano che insieme a Elena Cottaneo, secondo me, è in prima fila nel tentare di condurre il dibattito pubblico italiano secondo criteri scientifici e non secondo pregiudizi o convenienze politiche di parte, cioè il professor Gilberto Corbellini, che insegna bioetica e storia della medicina appunto all'Università La Sapienza di Roma. Buon pomeriggio e grazie, professore, di essere con noi. Buon pomeriggio, grazie a voi. Allora, innanzitutto ci dà delle sue opinioni generali in ordine a che cosa ha capito di questo tipo di ricerca, e poi soprattutto sul punto centrale: ci sono dei particolari in questo tipo di sistema di editing genetico che sconfinano nell'eugenetica e in un problema etico invalicabile? È una frontiera da percorrere, ma allora perché in Cina sì e altrove no? Come la pensa? Insomma, in Cina sicuramente un problema di eugenica, o eugenetica come si dice, esiste, perché l'eugenetica o l'eugenica non ha a che fare con, a mio parere, la libera scelta delle coppie che preferiscono, e credo che questo sia naturale, mettere al mondo dei figli sani e che abbiano la possibilità appunto di così vivere una vita senza gravi sofferenze. L'eugenica o genetica è quel tipo di politica, quel tipo di intervento dello Stato, della società, nelle libere scelte delle coppie che vogliono riprodursi. E questo in Cina lo si fa, mentre nel mondo occidentale non lo si fa, perché nel mondo occidentale, a parte alcune leggi come la legge 40, in genere si cerca di aiutare le coppie a fare delle scelte che siano consapevoli e che siano nell'interesse del nascituro. Quindi in Cina sì, in Cina adesso è difficile capire perché in Cina hanno fatto questo. Sicuramente questa tecnologia è una tecnologia nuovissima, straordinaria, è stata presentata insomma come forse la innovazione, la più importante avanzamento biotecnologico del secolo, perché ancora una volta abbiamo scoperto che i batteri hanno dei meccanismi molecolari sofisticatissimi che consentono loro, per esempio, di acquisire un'immunità contro virus o quindi agenti esterni che vanno a infettare il loro genoma, e hanno degli enzimi che gli consentono proprio di imparare a riconoscere questi virus esterni e a toglierli dal loro patrimonio genetico, dal loro genoma. E quindi, siccome poi il codice genetico è unico, insomma, in tutte le specie viventi, questi enzimi si è visto che si possono usare anche sui genomi umani, cioè quindi sui genomi nostri e quindi anche sui genomi di embrioni, e si può intervenire eventualmente riscrivendo l'informazione genetica, quindi si può in teoria andare proprio a non è come la terapia genica che già esiste da 20 anni, insomma, con tutti i problemi che ha, dove in pratica si usa un virus per inserire un altro gene corretto insieme a quello difettoso, che dovrebbe in qualche modo supplire a quello difettoso. Qui no, qui si va direttamente con delle guide particolari di RNA e con questi enzimi a tagliare, cioè proprio con precisione microchirurgica, con una specie di laser, si va a tagliare il gene malato, il gene difettoso, e lo si può sostituire precisamente con il gene corretto, e quindi questo sarebbe un avanzamento straordinario. Ci sono un po' di problemi, ovviamente. Il problema è chiaro che si deve, se si vuole curare una malattia a questi livelli di carattere genetico, si deve agire sulle fasi precocissime dell'embrione, e addirittura, se lo si vuole fare in modo efficace, si deve agire persino ancora prima che si sappia se quell'embrione è malato o non è malato. Quindi una coppia a rischio, per esempio, di avere una malattia genetica dovrebbe mettere in atto questa strategia su degli embrioni, sia sugli embrioni sani che sugli embrioni malati. Insomma, quindi è qualche cosa che poi alla fine porterebbe a fare degli interventi di manipolazione e di correzione perfino su degli embrioni sani. Insomma, qualche genetista tra i più avanzati. Bisognerebbe fare questo tipo di editing prima di una diagnosi prenatale? Esattamente, prima della diagnosi prenatale. Quindi già qualche genetista dice: ma perché non mi devo mettere a fare degli interventi su degli embrioni che sono normali, insomma, che senso ha una cosa di questo genere? E quindi qualcuno dice: quando avremo capito, insomma, l'avremo sviluppata meglio, la utilizzeremo. Il problema è che un po' di scienziati, e i più importanti scienziati che lavorano in questo settore occidentali, hanno chiesto una moratoria sull'uso di questa tecnica, proprio perché non si sa bene come funziona, proprio perché si può andare a riscrivere sul genoma umano, eccetera, e quindi proprio perché loro pensano che l'opinione pubblica abbia paura di queste cose, allora hanno lanciato questa moratoria. In Cina di fare questa moratoria non gliene può importare di meno, e quindi cercano di buttarsi avanti e di provare a sviluppare queste tecnologie per vedere se almeno in questo settore, dove loro comunque hanno una legislazione che li avvantaggia, o quantomeno hanno molti meno problemi di carattere bioetico, si possono forse, possono forse guadagnare appunto un qualche vantaggio. Allora, io la fermo un secondo perché abbiamo 60 secondi di informazioni sulle strade. Le faccio la domanda prima e poi risponde appena quando torniamo in diretta. Io di mio, cioè da papà fresco, per così dire, di bambino di 3 mesi, devo dire che non ho paura della ricerca, nel senso che oggi un bambino, se è malato di talassemia o anemia falciforme, con la diagnosi prenatale mi viene questa diagnosi, io a oggi ho solo 2 alternative, o meglio non io ma la mamma ha 2 alternative: farlo nascere e poi sperare in un trapianto al midollo osseo, oppure decidere di interrompere la gravidanza. Quindi io non ho paura di una ricerca che un domani consegni ad altre coppie la possibilità di intervenire prima di questa tragica scelta. Io sarei per tenerlo, ma insomma capisco che poi la mamma decide con un diritto prevalente sul mio, almeno io la penso così, ma a oggi siamo a questo. Però la domanda che io le faccio è: vista l'opinione prevalente dei più grandi ricercatori occidentali che chiede una moratoria sulla ricerca, lei cosa ne pensa? Se facciamo la moratoria sulla ricerca, significa che noi allontaniamo il tempo per verificare quali siano le tecniche attraverso le quali evitare contestuali alterazioni genetiche che sono accadute nell'esperimento cinese. Quindi la moratoria viene dalla paura e per assecondare la paura, sia con la politica che delle opinioni pubbliche, oppure avrà poi, oltre che questa motivazione, anche un esito negativo sui tempi e le modalità di ricerca? Perché poi questa è la domanda di fondo. Strada, e poi torniamo con la risposta del professor Corbellini. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornati in diretta al 16:49 primi. Stiamo parlando di questo esperimento, la prima manipolazione di un embrione umano in Cina. Non riuscito, ma i problemi che pone. Gli sms, un certo numero, dice argomento di nessun interesse. Me lo aspettavo, lo so. Cioè, io lo considero un difetto del dibattito pubblico italiano, perfetto, però io penso che ogni tanto bisogna parlare di questi grandi interrogativi di fronte a degli sviluppi che ci sono e su cui le opinioni sono diverse. Molti altri sms mi dicono: non capisci il paragone tra un embrione non vitale, cioè destinato a non essere impiantato, a non nascere, e la sperimentazione su invece su un vivo sia pur morente, perché hai un'idea evidentemente un po' strana e non coincidente con quella di chi mi manda questi sms su cosa sia la vita umana. Questo è un argomento che ci divide già sulla legge 40, perché io effettivamente non abbraccio questa teologia della vita che è diventata embriologica e che contraddice San Tommaso. Sì, effettivamente abbiamo opinioni diverse su questo, ma è giusto discuterne, ci mancherebbe altro. C'è chi mi fa osservazioni del tipo l'editing, questo Andrea, è molto corretta questa osservazione, mi ha molto colpito. L'editing si fa al termine di un lavoro creativo, non all'inizio, manipolando un embrione prima ancora di una diagnosi prenatale, come dice il professor Corbellini. Quindi, come immaginavo, le opinioni sono molto diverse. Prima della risposta del professor Corbellini abbiamo una telefonata da parte di Marco da Forlì, che vedo mi è segnalato dalla regia come informatore scientifico. Prego Marco. Sì, salve dottor Giannino. Sì. E salve anche al suo ospite. No, nel senso, io faccio un informatore medico per un'azienda farmaceutica, ma di base cerco di mantenere sempre una buona obiettività come cittadino, come persona. Sulla questione genetica, uno studioso che si chiama Albert Popp, che ha scritto un libro che si chiama La teoria dei biofotoni, in realtà dice che la genetica, cioè il nostro DNA, in realtà sarebbe vuoto e viene caricato in ogni istante di un determinato numero di informazioni all'interno di un campo di possibilità che lui definisce come morfogenetico. Perché dice che appunto quello che viene omesso è che si ammalano delle stesse malattie anche i figli di genitori adottivi. Quindi addirittura, io non ho gli strumenti per dare un'opinione su questa tesi, che lì per lì rifiuterei, però giro la domanda che ho fatto e anche questa sua osservazione al professor Corbellini. Prego professore. Vabbè, quest'ultimo è un po' fantascienza, ecco, comunque. Mi pare, ecco. I biofotoni, non ho idea di cosa sia. Dunque, comunque, lei ha perfettamente ragione, le moratorie sono deleterie, insomma, gli scienziati non ricordano, e purtroppo alcuni degli scienziati che hanno chiesto questa moratoria avevano già firmato una lettera nel 74 in cui chiesero la moratoria sull'uso del DNA ricombinante, cioè sull'uso della prima biotecnologia che poi avrebbe aperto tutta la stagione formidabile dell'ingegneria genetica. La conseguenza fu che prima chiesero la moratoria, si accese un allarme a livello dell'opinione pubblica, si riunirono, scoprirono che non aveva senso chiedere la moratoria, perché tanto bastava usare dei criteri di sicurezza e di controllo e si poteva fare tutto benissimo. Però quando loro si accorsero che il pericolo o i rischi non erano quelli che loro avevano paventato, in realtà l'opinione pubblica non gli credette più. E quindi quando si trovarono a dover, per esempio, costruire un laboratorio di biologia molecolare a Cambridge, nel Massachusetts, tutta quanta la comunità locale gli fece una manifestazione e ci misero 2 anni per farlo. Insomma, e noi oggi andiamo avanti con gli OGM, cioè il fatto che abbiamo queste credenze, come dire, superstiziose. Questo è il solo fatto di avere citato l'argomento OGM a inizio trasmissione, ci vale una raffica di insulti dicendo non puoi dire che gli scienziati sono per gli OGM, almeno altrettanto se non di più sono contrari. Io lo dico naturalmente, cari ascoltatori, io vi posso solo indurre a leggere e a riflettere sulle contraddizioni di un paese in cui chi vi dice no OGM sa perfettamente che in Italia il più poi dei mangimi utilizzati sono OGM e importati, da coloro che poi dicono che non bisogna fare né la ricerca in Italia né poi piantare altri semi OGM. Però io su questo oggi non stiamo parlando di questo. Un altro ascoltatore invece, professor Corbellini, una volta che lei, ho capito, è contrario alla moratoria, dice due argomenti. Primo, che senso ha, è come il nucleare, noi siamo contro, poi abbiamo il nucleare ai nostri confini, un po' la stessa cosa sia pure in diversa materia con questi esperimenti cinesi. Secondo, ma esiste una relativa certezza di un controllo al di là del peer-to-peer sulle ricerche pubblicate scientifiche, per cui la sperimentazione dei cinesi non possa avere anche obiettivi non dichiarati, fuori controllo, e ne vengono fuori dei mostri? Ecco, questa è una domanda sincera di un nostro ascoltatore. Lei che dice? Sì, vabbè, insomma, è chiaro, però questa idea di inventarsi scenari, come dire, catastrofici è la cosa più facile di questo mondo, insomma. Ora, è chiaro che se i cinesi vogliono farlo e si vogliono organizzare in laboratori e fare i mostri, possono fare i mostri e fare tutto quello che gli pare. Quindi a noi occidentali, e soprattutto a noi che abbiamo le migliori tecnologie, i migliori laboratori, i migliori sistemi di controllo, che abbiamo insegnato ai cinesi a fare queste manipolazioni, eccetera, abbiamo tutto l'interesse a portare avanti la ricerca in questo settore, lavorando, diciamo, con delle condizioni molto nette, molto rigide, molto precise. Insomma, la Gran Bretagna sulla questione della clonazione ha fatto un'operazione che dovrebbe essere una lezione mondiale. La famosa pecora Dolly. Esatto, ha fatto una legge con un articolo 1 che dice che non si può, è vietato impiantare in un utero qualunque embrione che sia il prodotto di una clonazione, di un trasferimento nucleare. In quel caso lì non può più nascere nessun individuo che sia un clone. Quindi noi possiamo tranquillamente mettere dei paletti. A questo tipo di ricerca, cioè, su questo non c'è problema, solo che se ci cominciamo a immaginare scenari, cioè quando si dice noi facciamo questo e non sappiamo che cosa ne può venire fuori, cioè sarebbe come non sappiamo che effetti può avere sulle generazioni future, ma stiamo scherzando, cioè, ecco. Ci sono 7 miliardi di abitanti, io devo dire, io abbraccio questa sua opinione, però guardate che professori, molto difficile convincere l'opinione pubblica e i politici, poi si scambiano politica il principio precauzione con assecondiamo il terrore dei Frankenstein in giro. Viva la scienza, per quello che mi riguarda, con tutti i limiti che è giusto porre. Continuate con Radio 24, grazie al professor Corbellini, appuntamento domani dalle 10 alle 12, Conti della Belva, non mancate!